בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. Buonasera a tutti, benvenuti in frequenza. Questa è Blu Radio Veneto, questa è la programmazione serale Blu Time Live. Inizia alle 21 di oggi, martedì 5 novembre del 2013. Una buona serata vi arriva da Flavio Bilato e da chi conduce insieme a me la trasmissione. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, questa sera ancora grandi appuntamenti live, acustici, per presentazioni sempre di lavori eccezionali. Ormai abbiamo abituato i nostri ascoltatori a questo e salutiamo sin dall'inizio un cantautore che è venuto a trovarci dalla terra triestina, da quella terra giuliana tanto amata da noi veneti, e diamo il benvenuto a Tony Bruna. Buonasera Tony. Ciao, buonasera. Fatto buonasera, buon viaggio Tony. Innanzitutto Tony, sì? Sì, ottimo. Perfetto, ottimo. Quindi formigole. E già iniziamo già a gustare quello che è il titolo del tuo lavoro, quello che presenteremo questa sera, che ci farà un po' grattare, sentire un po' le formiche, così come si chiamano nel dialetto triestino. Allora, un album assolutamente bello da ascoltare, vale la pena proprio estrapolare canzone per canzone e sentire un po' di passi di questo disco per capire un po' quello che nasce nella testa di Tony Bruna, nelle sue musiche, nei suoi componimenti davvero davvero particolari. Diciamo sin dall'inizio che questo è un disco che vale la pena ascoltare proprio in cuffia, proprio perché si capiscono meglio tutte quelle che sono le sonorità e soprattutto la poesia cantata di Tony Bruna, non cantata in italiano, non cantata in inglese, ma cantata in dialetto triestino. È una cosa molto importante. Molto importante, è un dialetto che assomiglia molto al dialetto veneto, non a caso viene chiamato anche dialetto istroveneto, proprio perché raggruppa sia diciamo gli amici sloveni, quella parte di Croazia che ancora, perlomeno gli anziani, parlano ancora il dialetto diciamo veneto, e poi ancora la terra di Trieste, dove invece è conclamato che ci sia e sia ancora bello esistente. Tony? Sì, è abbastanza in salute ancora, direi, anche se comincia a avere i suoi anni, secondo me. Le nuove generazioni non lo parlano più tanto. Diciamo che una volta le famiglie appunto parlavano il dialetto a casa, perlomeno della nostra generazione, sempre di più sta scomparendo, se non per qualche modo di dire, magari anche di piacevole risata, quindi torna diciamo una fattezza veneta alla battuta, però poi diciamo viene pian piano scomparendo, si dice. Sì. È un po' un male questo, Tony. Sì, io ti direi di sì, anche se inevitabilmente la lingua cambia, insomma. È triste che secondo me invece di modificarsi in maniera creativa, che la gente secondo me è molto creativa quando modifica la propria lingua, il proprio modo di dire, segue un po' quello che è il mainstream, no? Giusto, mainstream. A proposito del mainstream, no, doveva dire triestin, triestino, scusa, sbagliato. Ci sono dei collegamenti col mainstream, perché visto che la nostra cartella qua di biografia di Tony è immensa questa sera, abbiamo notato che molti t'hanno avvicinato a Johnny Cash. Stasera non sei vestito di nero, però qualcosina sì, perché c'è il giubbotto nero. Questa avvicinata a Johnny Cash, c'è un motivo, perché tu parli molto semplicemente, ma con la chitarra e con la voce. Johnny Cash ha sempre parlato con la chitarra e con la voce. Beh, un paragone un po' è pesante, però interessante. Interessante. Non so se è l'ascolto, Johnny, lo salutiamo. Però è interessante, sì, interessante. Sì, sì. Avvicinarti so, a grandi linee. Mi fa piacere che qualcuno mi abbia avvicinato, però. Johnny Cash ti piace chiaramente? Sì, sì, sicuramente. Assolutamente, sì, nel tuo ovvio. DNA, assolutamente. Sì, sì, direi di sì. Non ho ascoltato tutto, ho ascoltato poche robe, però sicuramente quelle poche robe che ho ascoltato. Quelle giuste, chiaramente. Sì, bene. Sì. Allora, noi stiamo già parlando nell'insieme della musica, della costruzione, di tutta quella che è la musicalità di Tony Bruna, però non abbiamo ancora ascoltato un pezzo, quindi per inserire bene la musica con poi i commenti che verranno dopo, sino alle 22.30 insieme a Blue Time Live, direi di cominciare con il primo pezzo in programmazione per questa sera, proprio il pezzo che dà il titolo all'album, e quindi ci ascoltiamo Formigole, eccolo qua. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time Live. Eccoci qua, abbiamo ascoltato il primo pezzo di Tony Bruna, si intitola Formigole, proprio come l'album che stiamo iniziando a percorrere. Lo faremo fino alle 22.30 parlando appunto dei testi, delle musiche, di tutto quello che riguarda il mondo e l'emozione musicale di Tony Bruna, di quello che ci ha voluto portare questa sera. Allora, in questo Formigole, un'atmosfera delicata e surreale, con tanto di glockenspiel a scandire il ritmo del testo, e questo Formigole che parla di una società di gente che va, che viene sempre di fretta e che comunica con l'antenna, quindi l'effetto delle formiche che si fermano un attimo a passarsi le informazioni, rappresenta come un dialogo non più, diciamo, vocale e di continua frequentazione tra le persone, ma quasi un linguaggio digitale, non più con la parola. Tony, ho letto giusto? E per me è sempre interessante quando succedono queste cose, perché sì. Io quando scrivo le canzoni non so cosa sto facendo in realtà, no? Per cui... E poi anche una volta che le ho scritte le vado a risentire e sì. comunque non riesco a capire quello che volevo dire. Per ah, cui benissimo, quindi... quando la gente me le spiega io sì. sono sempre contento. Bene. E ogni interpretazione è valida. Per esempio la tua non mi era mai capitato, però mi piace, sì, perché no? Potrebbe essere, sì. Bene, grazie. Allora sì, prendiamo nota che abbiamo letto giusto, Maurizio, nel testo direttamente dal triestino l'abbiamo tradotto e fatto tesoro. Comunque diciamo che hai detto in giro che non ami commentare troppo i tuoi testi, vero Tony? Non, più che altro ti dico, mi rendo conto che è una mia deficienza, nel senso che non... Come ho detto tante volte, per me lo scrivere, il comporre è un processo abbastanza normale, inconsapevole. Sì. Perché tu ti definisci artigiano della musica, artigiano sì. ti sei definito più di una volta, sì. quando ti hanno domandato, mi definisco così, hai detto, artigiano della musica. In realtà io non ho detto... Non hai detto artigiano. Non l'ho detto, questo è quello che ti dicevo prima, che tante volte... Tanto hanno ripreso, hanno allargato un po'. Sì, è successo, però, sì. Possiamo dire che sei... Che ti, artigiano esiste questo termine? Diciamo che lo preferisco ad artista, ecco, credo che il termine artista sia abbastanza abusato in questi giorni e di artisti veri ne vedo ben pochi, per cui non voglio far parte di quella categoria, preferisco la categoria di artigiano, mi sembra molto più adatta a quello che faccio io. Tutto qua. Sì, anche perché la musica di Tony Bruna, come abbiamo sentito, sembra proprio musica fatta in casa, diciamo, un po' come le tagliatelle, quindi gestita proprio in prima persona dall'artigiano che vuole appunto costruire questa melodia, che poi naturalmente si fa aiutare da altri artigiani nel proporla. Ad esempio la parte finale di questo Formigole, c'era questa viola così. È un contrabbasso. Un contrabbasso, sì. È Marco a Brescia, è bravissimo contrabbassista. Sì, hai ragione te, nel senso che è, come dici te, è un processo artigianale. È un disco che è stato fatto in casa interamente, registrato, prodotto e masterizzato. Per cui mi fa piacere che si senta e mi sembra anche ovvio che si senta appunto questa fattezza artigianale, diciamo. Hai avuto a te l'idea del contrabbasso finale, che è significativo, dà un certo colore al pezzo. Ma di solito i musicisti che partecipano, poi magari qualcuno di loro dirà il contrario, però io però ci sei solo tu oggi. No, io credo che hanno tutto lo spazio per fare quel che vogliono, ovviamente. Se a me non piace dico questo no o quell'altro sì, no? Però questa è un'idea di Marco, assolutamente. Ah, okay. Sì, sì. Stavamo provando varie cose e lui se ne è venuto fuori con questa qua, è stata buona la prima, buona proprio, la prima. Sì, ed è rimasta così ed è bellissimo secondo me, anche certo, proprio certo. per questo. Benissimo, ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo qui in piacevole conversazione in diretta con Tony Bruna, il nostro amico artigiano musicista che è venuto a trovarci da Trieste per proporci questo nuovo lavoro che si intitola Formigole. Allora noi lo ringraziamo perché oltre a se stesso ha portato anche la sua preziosissima chitarra, perché è necessaria per il prossimo pezzo che andremo ad ascoltare. Stiamo parlando di Gente che no ghe frega de niente. Molto quindi bene. Ce l'ascoltiamo e poi torniamo a commentarla insieme qui a Blu Radio Veneto. Thank you. gente che non le frega di niente, anche se ha la corrente e piace stare in scuro. E bevi l'acqua delle piante, il naso la polvere del muro, il naso la polvere del muro, il naso la polvere. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Gente che no ghe frega de niente. Questo è il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato nella versione acustica di Tony Bruna qui a Blu Radio Veneto per la presentazione del suo lavoro datato 2013 che porta il nome di Formigole. Allora, con questa gente si inizia con una chitarra incalzante, poi nel disco ancora un'atmosfera ancora più etnica di quello che abbiamo vissuto adesso, con delle percussioni sempre più forti. E poi anche c'è un flauto che regala delle atmosfere particolari. Sì, sì, lo ricordo bene. Lo ricordiamo bene noi che abbiamo sicuramente ascoltato il disco prima di proporlo ai nostri ascoltatori. Naturalmente ce ne siamo fatti una giusta dose. Che un flauto andino, tra l'altro. Ecco, vedi? Non di Trieste. Kenna. Come si chiama? Kenna? Kenna. Bene, ecco, quindi si imparano sempre cose nuove. Con gli artisti, quindi dove l'hai preso questo flauto? Direttamente in Perù, credo. Sì. In Perù, quindi sì. Nel tuo giro che hai fatto dalle parti dell'America Latina, hai portato a casa, oltre che esperienze musicali, anche strumenti in questo caso. Chiaro, sì. Quindi, in realtà solo quello là, perché è un po' complicato da... certo. Qualcosa, questo pezzo, giustamente, secondo me, ricorda Nick Drake, ma ti spiego il perché. Ricorda Nick Drake, che per l'appoggio e il modo di cantare che c'hai. Nick Drake nel secondo disco, mi pare, non nel primo perché era con l'orchestra, ma nel secondo disco e soprattutto nel terzo, in Pink Moon, aveva queste esplosioni tra virgolette sonore vocali, e la musica e il giro armonico della chitarra era molto scheletrico. Forse gli ascoltatori non lo sanno, ma Nick Drake aveva un modo di suonare e di imporre le note molto particolare, molto difficile da fare, difficilissimo, e creava note su note, accordi su accordi. Sì, e Pink Moon, affinché piaccia, bisogna ascoltarlo non una volta, perché la prima volta potrebbe anche subito non piacere. Esattamente. In realtà è proprio quel disco che fa parte un po' anche della storia della musica, proprio perché là dentro poi, se uno ha voglia di scavare, trova delle sonorità davvero eccezionali e impagabili. E certo, un critico ha scritto che Nick Drake si accompagna alla musica sudamericana, una coesione abbastanza forte, e non ha mica ragione, cioè assolutamente ragione, perdono il critico, almeno secondo me. C'è questa potenza alla Drake, e il tuo modo di musicare molto sudamericano, perché al di là sei stato un po' di tempo in Sud America, hai recepito musicalmente certe cose. Sei d'accordo, Tony, in questo? Sono assolutamente d'accordo col discorso del Sud America, nel senso che sicuramente ho rubato e sto rubando tanto da... No, l'hai rubato, hai recepito, possiamo dire, sì, più che rubato. È sempre un furto, secondo me. Vabbè. Però, insomma, purché sia chiaro che è un furto, è giusto così, secondo me. Sì, purché se ne faccia buon uso, poi, sì, no? Appunto. No. E poi cos'è che dicevi, sì, di Nick Drake? Cacchio, sì, l'ho ascoltato veramente tanto. L'hai sentito parecchie volte? L'approccio musicale, vocale che c'ha lui. Però sì, per me poi riuscire a capire se quel che faccio io assomiglia per qualche modo, come un blocco, non lo voglio vedere, non mi interessa, però sicuramente sì. C'è, se tu mi dici che c'è, io sì, ti secondo credo me, perché l'ho ascoltato. Io e Flavio, che abbiamo sentito parecchie volte Nick Drake, soprattutto Pink Moon. Pink Moon, certo. C'è questo approccio, questa vicinanza, possiamo dire, se mi è consentito, Tony, questa vicinanza a questo nume tutelare. Sì, beh, ti ringrazio anche qua, è un'altra vicinanza che mi mette un po' in imbarazzo, ma... grazie, sì. Vabbè, poi fantastico. Vuol dire che non tornerai a casa da solo, ma con tutte queste vicinanze, diciamo. Ottimo. Benissimo, tra altre cose ho visto ci sono parecchi commenti positivi anche nei giornali locali, mi riferisco al Piccolo di Trieste e ad altri giornali che girano dalle parti tue, dove dicevano le formigole triestine hanno conquistato anche chi non le capisce, nel senso che le sonorità, soprattutto oltre che i testi per chi li vuole ascoltare, hanno, come dire, regalato dei momenti di vera saggezza musicale in questo caso. Wow. sono sempre gli altri che scrivono, sì, quindi sì. Ecco, noi ci limitiamo in questo caso a riferirne poi anche agli ascoltatori. No, ti dico, sono cose che fanno piacere sicuramente, no? Certo. Quando la gente scrive queste cose. Però appunto, come dicevo prima, riportando una frase di mia nonna, dice la carta si lascia scrivere. Sì, certo. Soprattutto quella bianca. Sì. Bene, allora continuiamo con l'ascolto di Formigole di Tony Bruna con noi in questa serata. Un altro pezzo, il pezzo è il numero 7, sono ben 10 pezzi. Un pezzo che in qualche maniera è legato anche alla città di Padova. Chiaro. Si intitola San Antonio. Involontariamente, però sì, ormai sì, sei sì, qua. Ormai sono qua, sì. Benissimo, allora sarà una coincidenza. Si intitola San Antonio, eccolo qua. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. vita dei freni, la pompa dell'olio, la vita del sporco. Veglia sul mio proma, sul cento malossi, sul 24 dell'orto. Fammi tornare a casa anche se sono duro. Fammi tornare a casa anche se sono storto. Su una riva da solo, quel che dà, di qua fin borgo. Su una riva da solo, quel che dà, di qua fin borgo. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. È proprio il caso di dire, Maurizio, che siamo in presenza di suoni assolutamente internazionali, se non fosse perché poi seguiamo il testo in assoluto dialetto triestino, poi tra noi veneti e con naturalmente i giuliani triestini ci intendiamo bene e quindi le parole arrivano più chiare, non è l'inglese di cui magari può sfuggirci qualcosa e quindi diciamo Tony Bruna, presenza internazionale della musica triestina. Allora, Sant'Antonio sicuramente da sto studio con un ego che sì. non passerò per le porte. No, beh, ci fermiamo prima, ok, casomai poi ti sgonfiamo verso la fine. Allora, ascolta, Sant'Antonio è un santo, oltre a essere ricordato qui a Padova, ma un santo che gira molto forte anche nel Centro America. L'hai portato da lì? Penso di sì. No, la mia relazione con Sant'Antonio è una relazione che non ha niente a che vedere con la chiesa come istituzione, sì, ma è una relazione personale, diciamo. C'è una chiesa dedicata a Sant'Antonio Taumaturgo, sì, nel centro di Trieste, dove in un momento particolare della mia vita andavo da ragazzino a dormire sotto il portico. Quindi scappavo da casa e dormivo le notti lì, per cui ho sviluppato questa, diciamo, relazione personale. Quindi un punto, personale di, un punto di rifugio, diciamo. Sì, no? Assolutamente. Quindi, per quanto io non sia credente, certo, però... Sì. Però diciamo ti dava una certa, come dire, sicurezza. Intanto non pioveva. Intanto non pioveva. Perché sì, porticato, perché piuttosto imponente. Sì, sì, eri riparato dalla bora. Ero riparato dalla bora. E quindi è positivo questo. Sì, sì, è un posto ideale. Poi in centro, per cui la mattina mi svegliavo, andavo a scuola. Direttamente. Perfetto. Sì, sì, sì. E quindi, perfetto, perlomeno non marinavi, quindi diciamo passavi la notte. Sì. O quasi, dai. In va quel bene, periodo no, là no, diciamo. Non svegliamo proprio tutto, perché se magari hai in ascolto qualche professore o i genitori magari possono scoprire cose nuove. No, di, non credo, di non Tony è... Bruna. Anche musicalmente è un pezzo abbastanza semplice, ma non è proprio semplice, ha un sacco di riverberi, ha un sacco di sonorità nascoste, secondo me. Come mai Tony ha avuto questa idea? Perché ti è venuta così? I musicisti hanno appoggiato la tua idea, è andata così nella tua stanza. Come prima ti dirò, mi piacerebbe saperlo come mi è venuta, perché veramente è una roba che mi rendo conto di non controllare, è una roba che mi rendo conto di non controllare e che proprio ultimamente è stato motivo di crisi per me, perché mi volevo mettere a registrare delle cose nuove e non c'è stato verso. Per cui non so come farò, ecco, dovrò aspettare. Beh, ci saranno altre cose che tu hai in mente di fare, di sviluppare. No, sicuro, ma ce n'è anche ce ne sono di canzoni che sono già pronte, diciamo, che portiamo dal vivo, anzi qualcuna la farò anche qui stasera, e che non sono nel disco. Però ti dico, per qualche motivo, non so se un fattore astrologico o da che cosa dipenda, però non è così, non è una cosa così matematica, non è che io mi sieda lì e dico ah, aspetta che scrivo una canzone, no? Aspetta che registro certo, una canzone, certo. Non... sì, anche perché la canzone arriva nei momenti più sì, assolutamente più vari, no? Sì, sì, quindi, sì, sì, assolutamente. Quindi non è che ti metti là l'aspetti che sta passando, no, purtroppo la canzone ti passeggia accanto, poi si fa vedere, poi scompare improvvisamente, sì, sì, esatto. Per poi ritornare, esatto. Insomma, sono questi sottili giochi. È un po' come pescare, dico io. Uno sta lì, butta i suoi ami e aspetta. Qualche esca, ne prova. Sì, poi vedi se qualcosa che si muove, qualche volta è un pesce, qualche volta no. E qualche volta sono le chitarre, le corde della tua chitarra. Sì, esatto. Sì. Benissimo, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo piacevolmente in conversazione, lo saremo fino alle 22:30 insieme a Tony Bruna per la presentazione di Formigole. Ricordiamo che questa trasmissione, oltre a poterla ascoltare in diretta con le frequenze tradizionali, è anche ascoltabile tramite lo streaming audio al nostro sito internet bluradioveneto.it. Nella pagina riservata a Tony Bruna basta cliccare su ascolta la trasmissione, e questo link poi verrà cambiato perché nei prossimi giorni sarà disponibile anche quella che è la registrazione così nuda e cruda come è venuta di questa intervista, con l'abbinata di queste canzoni, non solamente del disco ma anche quelle che Tony Bruna ci farà ascoltare in questa serata. E un altro pezzo, Tony, dal tuo CD, in questo caso diamo spazio ancora alla versione acustica dei fatti. Questa volta sì. Ci ascoltiamo Cristo de Gesso? Esattamente. Apposta, eccolo qua. Corona, una Madonna del litro, un litro di acqua del luce. E ogni mattina con quell'acqua frego gli occhi e la bocca, me onzo fronte e mano. Me par come che come che me par come che me par come che ho cominciato a far miracoli, ho cominciato a far miracoli, a far miracoli, comincia a far Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Benissimo, la radio è non solamente da vedere in certe situazioni, è da ascoltare anche da vedere, perché mi è piaciuta molto la faccia di Maurizio quando a un certo punto Tony Bruna è partito alla carica sì, con la sua chitarra. Ha fatto un trip praticamente. Dove sta andando? Benissimo, Cristo de Gesso si intitola questa canzone e parla di una ricerca del miracolo. C'è un fervido credente che di fronte a una difficoltà importante le prova tutte per avere il miracolo, o perlomeno gli sembra che in quel momento il miracolo ci sia stato. Tony. Sì, sempre partendo dal presupposto che mi sento abbastanza incomodo a parlare dei testi. Sì, sì, sì. E questo lo sappiamo, è per quello che sì. Lanciamo le freccette. Tipo, sì. Sì. E, più che altro io credo che sia una distorsione del credere, no? Che credo tante volte si... Mi sono trovato di fronte a delle persone che distorcevano appunto il fatto di credere in Dio, diciamo, no? Il fatto di credere alla religione. E quindi nel caso specifico questo tipo si chiede se sia lui a fare i miracoli, no? Certo. Qui va proprio fuori di testa, diciamo. Quindi una chitarra classica, quello che ascoltiamo invece da disco, mentre abbiamo ascoltato questa versione molto molto sostenuta in acustico, quindi in diretta, una chitarra classica slide armonica che poi finisce con l'elettronica. Mi sembra di sì. No, sì, perché... si ricorda sempre molto bene. No, pezzi, ma sai cos'è? Tony. Che, sì, dimmi. Che una volta che ho registrato il disco, sì, non lo vado più a riascoltare, perché sì, quando fai un disco lo riascolti così tante volte che non ne puoi più. E okay, già devi farle dal vivo. Sì. E in più, se me lo vado anche a riascoltare a casa, sarebbe proprio una roba veramente... Sì, quindi non lascia ascoltare gli altri. Sì, certo. Mi sembra più... Sì. Per cui certe cose me le sono dimenticate, che è anche un bene se vuoi, perché sì, per esempio sì, i pezzi che hai fatto riascoltare adesso, queste sono le uniche occasioni che ho di riascoltarmeli anch'io. Ah, certo. Per cui li apprezzo. Noi anche, siamo se no, ben contenti di farti sì, ascoltare. Grazie. Sai, Tony. Benissimo. No, anche perché queste che tu fai poi qui in versione acustica sono, come dire, dei rifacimenti liberi che vanno nell'emozione che stai vivendo in questo momento. Quindi dimenticando, diciamo tra virgolette, dimenticando quello che è successo sul disco, poi hai anche la mente libera per sviluppare nuove idee. Ma sicuramente che i pezzi vengono diversi dal disco. Io credo che a meno che non sia una registrazione live, il disco dovrebbe essere marcatamente una cosa ben distinta da quello che uno porta dal vivo. No? Perché le pratiche che si usano nel registrare un disco sono delle pratiche artificiali che nulla hanno a che fare con la performance live. Certo. A proposito di performance live, Barbara Santi su Rumore non è un giornale che scrive così musica rock, ma molto abbastanza energica, ha scritto una cosa molto bella. Barbara Santi, te lo ricordi? E noi la citiamo per gli ascoltatori non lo sanno. Anche per me. Un timbro che ha poteri terapeutici fuori dal coro, che non vuole mai imporsi. Questo è importante, non vuole mai imporsi, e proprio per questo investe di brividi chi lo ascolta. Il timbro che investe brividi. Noi stasera siamo stati investiti dai brividi psichedelici di questo pezzo, questo trip che tu hai fatto. Secondo me sì, c'era questa forza. Io l'ho recepita così, anche sicuramente Flavio. Quindi, al di là del detto, quindi oltre a Formigo anche brividi. Esattamente, ecco, esattamente. Perfetto. Allora, sono le 21:43 minuti primi, siamo nel bel mezzo della trasmissione, quindi staremo insieme fino alle 22:30, poi scatterà Rock Wave, l'onda del rock. E approfittiamo anche per salutare il nostro direttore artistico Alberto Prisco. Più tardi avrai modo di conoscerlo anche tu, Tony Bruna. E noi possiamo continuare con l'ascolto del prossimo pezzo, questa volta da disco, un pezzo che si intitola Tessò una santa. Esatto. Tutto attaccato in questo caso. Sì. Sì. Andava bene così? Sì. Perfetto. Allora ce l'ascoltiamo, eccolo qua. Tessona Santa. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Allora, perché si fosse messo in contatto solo adesso con noi, ricordiamo, noi siamo Blu Radio Veneto, la trasmissione che state ascoltando è Blue Time Live con Maurizio Calzavara, Flavio Bilato, e insieme a noi c'è Tony Bruno, l'abbiamo ascoltato adesso con un altro pezzo dal suo lavoro che si intitola Formigole, e con questo Tesso una santa, che vuol dire sei una santa. Tony, esatto. Ho tradotto giusto? Esattamente, sì, perfetto. Come mai? Dedicato a qualche donna che ti avvicina? Sì, è dedicato alla mia compagna. Ecco, vedi, sì. C'era qualcosa. Penso sia la prima volta che lo dico. Sì, bene. Beh, è registrata, possiamo, ecco. Possiamo averla liberatoria poi. Ecco, quindi la salutiamo, la signora Bruna, allora la salutiamo. Esatto, sì. Ecco qua, che ci starà sicuramente ascoltando in streaming audio. Ricordiamo, Tony, visto che non l'abbiamo fatto prima, come si fa per entrare in possesso del tuo CD, che ricordiamo comunque essere uscire per la Niegazzovana, è un ottimo, po' di sì. Lingua da pronunciare. Ci ho provato tutta oggi pomeriggio, nonostante ciò mi sono bloccato a metà. Niegazzovana, sì. Bravo. Allora, Niegazzovana, che tra altre cose non è propriamente di Trieste l'etichetta. No, sono di Vigevano. Loro. Di Vigevano, quindi l'Italia, il nord-est. Il nord-ovest, scusa, ha guardato il nord-est in questo caso. Sì, non so bene come sia successo. Penso che, anzi sì, so come sia successo. Penso siano stati i fratelli Russo, che sono giornalisti, scrittori di Trieste. Sì, che hanno spinto praticamente, perché l'etichetta... Ricordiamo che l'etichetta è di due personaggi di un certo peso. Cioè, incidono due personaggi di un certo peso. Uno è uno dei Teatro degli Orrori. Sì, esatto, sì. Jonathan Mirai. Che t'ha visto proprio come... è stato colpito incredibilmente dal tuo concerto, testuali parole, che figo questa musica di questo testino, sì, che figo, ha detto. È proprio testuali parole. Testuali parole. Però testuali, aspetta, parole. Torniamo alla domanda base, come si fa ad entrare in possesso del tuo disco? C'è un sito internet? Dunque, molto c'è bello, un sito internet, sì. Ma sul sito, mi hanno fatto notare proprio ieri, non si può comprare il disco, mi hanno detto non farai tanti soldi se vai avanti così, sì. Effettivamente hanno ragione. Però il disco si può comprare sul sito dell'etichetta, quindi www.niegazovana.net, e poi ci sono i vari formati non fisici, vari non so perché non ho idea, però credo iTunes, queste robe qua, insomma. E in tutti i migliori negozi, come si dice. Sì, in teoria, sì, certo. se non ce l'hanno si può ordinare perché si è distribuito a livello nazionale. Quindi si trova praticamente. Distribuzione della Venus, quindi a livello nazionale garantita. In realtà è distribuito da Audio Globe. Sì, il CD porta il marchio Venus, ma c'è stato un problema poi quando il CD era già stampato. Ah, bene, vedi? Sì. Quindi, sì, e adesso è Audio Globe che distribuisce. Incidenti di percorso, però. Sì. Quel CD tu l'avevi inciso a casa tua 2 anni fa, poi col discorso del teatro, del solista del Teatro degli Orrori, ha dato una spinta, la spinta è arrivata all'etichetta e praticamente ha ristampato il CD, quello discorso. Sì, è un po' difficile seguire i percorsi discografici. Sì, non so, ma sicuramente Jonathan ha dato una spinta non da poco. Sì, sicuro. Sì. Ma ti dico anche Ricky e Elisa Russo molto probabilmente hanno tartassato Fabio e Massimo di Negazovana per passandogli le mie robe, insomma. E quindi, e come sono trovato? Grandi fan di Stefano Edda, loro, per cui quello dei ex di Tribale, Stefano Edda. Ma, stiamo parlando di un artigiano che va verso l'industria discografica. Pregi e difficoltà trovate? Diciamo che più che verso l'industria discografica va verso un reperto di archeologia industriale discografica, perché ormai non so se esiste più l'industria discografica. Cioè, esiste, diciamo, c'è ancora, però non sta navigando forse troppo bene. Chiaro. Per cui vincono in questo periodo tutte quelle che sono le etichette, diciamo, indipendenti, che producono assolutamente musica come quella che stiamo ascoltando questa sera. Sicuro. Però sì, tu dicevi pregi, difetti, i pregi almeno per me sono stati che adesso ho un pubblico più vasto, se vuoi, e quindi questo fa bene all'ego fondamentalmente, come si diceva prima, fa piacere che la gente scriva le cose che hanno scritto sulle riviste specializzate, ovviamente partendo con un progetto come il mio che pensavo non arrivasse da nessuna parte, perché un progetto in dialetto registrato in casa, ho detto invece quello è stato lo faccio proprio... perché ho voglia di farlo e basta, e poi invece si è rivelato una cosa che funzionava anche al di fuori della mia stanza, a livello nazionale funzionava. Sì, sì. Assolutamente sì. Allora adesso un altro pezzo dal vivo, in scaletta vedo un qualcosa che non conoscevo. Esatto. Quindi ci hai voluto fare già qualche sorpresina, no? Sì. Sì, questo brano si chiama Il Vino. Sì. Ed è, se vuoi, una fotografia di uno dei miei maestri, che è Elvino Trabucco, che purtroppo, per fortuna, non so, è passato la miglior vita proprio qualche tempo fa, ed è stato un grandissimo falegname. Questa canzone è una, io direi che un'immagine, no? È la sua immagine in musica, la mia quella roba lì. Bene, perfetto. Allora, Tony Bruna qui a Blu Radio Veneto con Il Vino. Eccolo qua. Quel che hai visto, lo eso no es esburza, no es un punto más. Ay, no. Ay. Ay, no. Sin aquel escape, come leche caramelo, los ideales siempre cuelan. Usted solo en sus burtas, no es un punto más. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. E quindi El Vino non era una libera traduzione spagnola dedicata all'ottima bevanda che anche dalle parti di Trieste si fa bene, ma era proprio il nome proprio di persona, quindi El Vino, esatto. Che è un triestino doc, a quanto ho capito, sì. Un triestino conosciuto da tutti, al quale tu hai voluto dedicare questa canzone, un po' anche per il suo lavoro così speciale. Sì. Non so se è conosciuto da tutti, insomma, però sì, sì, sì. Comunque, perlomeno è un personaggio molto, molto umile, però certo. Portatore di una conoscenza che ormai non è più così comune. Discendente da una famiglia di falegnami, mm-hmm. È uno di questi personaggi che ha visto la falegnameria nell'epoca in cui non esistevano macchine elettriche, per cui si faceva tutto a mano. Sì, sì, quindi solo spazio andava alla sega e, sì, sì. E basta. Si andava a prendere la legna con i cavalli, per cui cacchio, un mondo totalmente diverso da quello che vediamo oggi, insomma. Ed è morto in un periodo che cacchio, siamo qua con i telefoni, possiamo viaggiare, sì, sì, sì. In internet possiamo fare delle robe assurde. E lui era ancora legato comunque al suo mondo antico, a quanto ci dici. Lui è un personaggio incredibile, ha lavorato fino alla fine dei suoi giorni praticamente, credo avesse quasi 90 anni che è morto, con molta tranquillità, molta calma. Ed è uno di quei famosi che sono andati a fare la campagna di Russia, tra l'altro, e sono tornati a piedi dalla Russia, quindi ne sapeva qualcosa anche di fatica, e comunque sempre calmo, sì. Sempre tranquillo, mai un problema. E che si è vista distrutta, diciamo, la propria prima parte di esistenza, e che però naturalmente gambe in spalla, sì, si sì. Riparte, quindi sì, sì. Grande personaggio, e quindi assolutamente. E in molti comunque, tu mi confermerai, l'hanno conosciuta attraverso la tua canzone. Beh, sì, se vuoi, sì, sì. E perché, Tony, hai dato un arrangiamento, hai creato un arrangiamento molto andino? Questo pezzo è assolutamente sudamericano, anche del cantare forte come vocalità, molto sudamericana, assolutamente. Sì, molto intilimani. Molto intilimani, bravissimo, proprio così. Ti risponderei con la stessa risposta di prima, a saperlo. A saperlo, a saperlo però al di là di questo, però si sente. Uno segue l'emozione, no? Diciamo, non è che sta lì a pianificarla a tavolino, per cui è uscita così. Però noi l'abbiamo abbiamo ricepita subito che era molto sudamericana. Sì, sì, ma sono d'accordo con voi, sono d'accordo, sì. Credo sia, probabilmente rabbrividiranno tutti i latini in ascolto, credo sia un 6/8. Ah, che ho capito, sì. 6/8 della cueca cilena, che però molto probabilmente è la mia interpretazione di sta cosa qua. Come spesso mi è capitato in Latino America di provare ad imitare le cose che facevano loro, e il risultato era che mi guardavano scuotendo il capo. Quindi no, ombre, non ci siamo. Tu hai parlato prima del legno e tu hai detto in un'intervista: mi piace il legno perché a Trieste io amo particolarmente un bosco, mi piace la zona Viale Alto, è così? Sì, ma non per il bosco. Sì, beh, chiaramente non per il bosco. Sì. Ma sì, ti dico, è quel famoso rifugio dopo il portico che citavamo prima? No. No, è la zona dove vivo adesso. Ma ti dico, è divertente come poi escano le cose sulla stampa, no? Esattamente, io solo cito quello che ho visto. Sì, ovvio. Che parlano di te e tu non sai nemmeno di cosa parlano. Sì, no, nel senso sì, so a cosa si riferisce, però non credo sia una cosa così da riportare. Stavano parlando, perché ci trovavamo in quella zona lì, in un bar dove vado a bere caffè, di solito, insomma. Niente di particolare, è una delle zone di Trieste che rimane forse ancora un po' popolare, ma legate alle tradizioni forse. Sì, ma neanche no. Neanche tanto. Benissimo, allora sono le 22 in questo preciso istante, siamo sempre in piacevole conversazione con Tony Bruna per la presentazione di questo suo lavoro che si intitola Formigole. Una cosa che non ci ha ancora spiegato Tony, vogliamo sapere anche qualcosa della copertina. Chi andrà in cerca di notizie legate a Tony Bruna scoprirà che c'è una copertina davvero particolare, quindi con le famose formigole che girano per la copertina, e con un signore inquadrato, non so, a metà, si può dire, a metà alta della faccia, un occhiale, una situazione seria, e con le formiche che gli girano intorno. Cosa sono? Dunque, questa è l'interpretazione che ha dato appunto alla copertina un bravissimo grafico di Trieste, un artista, io direi, in questo caso, sì. Che si chiama Jan Sedmak, che, come se non bastasse, adesso ci accompagna anche come clarinettista dal vivo. È un personaggio veramente incredibile, eclettico al massimo. Sì, sì, assolutamente. Per cui non so, bisognerebbe chiedergliela lui. A me, io gli ho dato carta bianca e lui ha fatto quello che si vede nella copertina, insomma. Io sono super contento, lui credo anche. Questo è quanto. Però avevamo parlato di Tony Bruna triestino, in realtà adesso sempre più lo stiamo portando verso il latinoamericano, al che prende anche un po' la pronuncia latinoamericana. Ma si sente un pochettino Tony, me lo dicono. Ma si sente un pochettino che è la pronuncia sudamericana, assolutamente. Sì. Benissimo, allora, entonces, come direbbero gli spagnoli, andiamo ad ascoltarci un altro pezzo dall'album Formigole. Questa volta ascoltiamo Picard. Blue Time Live. Live. Piace lo sporco, nasce lo sporco, piace lo sporco, nasce, pianificare. Ti piace la sporca dei nasi, la sporca ti piace, la sporca dei nasi, ti piace piccare. Giambi, ripigli te. Giambi. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Si intitola Picard. Tony Bruna qui con noi per il suo nuovo Formigole. Allora, Picard è una parola sia triestina sia spagnola, vuol dire tante cose, vuol dire appendere, vuol dire pungere, vuol dire beccare, bucare. Sì. Nel tuo modo di vedere il Picard, cosa rappresenta? Dunque, Picard da pendere, sì. In questo caso. Sì. A Trieste si usa, ovviamente che nella sua accezione normale, per mm-hmm. esempio... Picatabari, sì, appendi abiti, sì. O Picarin. Eh sì, è il Picarin. Cos'è il Picarin? È una figura che esce molte volte nel tuo modo di dire, perché il Picarin è anche un personaggio. Chiaro, sì. Beh, il Picarin è, magari quello sono tutti in Veneto, cos'è? Però è, non so se anche qui lo interpretate come la persona. Potrebbe essere interpretato come vale poco. Sì, come un inetto, diciamo, eccolo, sì. Qua. Sì, non è molto usato. Picarin mi dava più da quello che tipo un lacchè, di quelli che vanno a prendere l'abito delle persone importanti. Ah, lo okay, vanno. No. Sì. Da noi si usa come un inetto, appunto. Non vale granché. E quindi qual è la trasformazione? Però in questo caso, sì, non c'entra niente. Non c'entra niente col Picarin. Sì. Si usa picare anche quando uno è particolarmente ubriaco o particolarmente sotto effetto di qualche sostanza psicotropa, e quindi si trova nella posizione come di che le gambe non reggono più. Quindi dà la sensazione che sia come appeso ad un qualche cosa che di poco stabile, che da un momento all'altro va a cadere, no? Certo. E questa è proprio l'accezione usata nella canzone. Parla proprio di questo, di un personaggio particolarmente dedito all'uso di sostanze. Sì, sì. Sì. E che vive questa atmosfera sospesa, come era anche nella musica che abbiamo ascoltato. Quindi una situazione comunque molto greve del vivere. Sì, sicuramente, almeno nella mia esperienza, le persone che ho incontrato, il percorso che ho fatto io attraverso queste situazioni, ti direi che nella maggior parte dei casi sono situazioni di disagio, ecco. Situazioni dove la gente non è che lo fa perché è felice. Sono rari i casi, ci sono, però nella maggior parte dei casi sì, questa canzone secondo me parla un po' di determinate situazioni in particolare che si vivevano negli anni 90, che probabilmente si vivono ancora, di discoteche piuttosto che e post discoteche, gioventù che non sa bene dove sta andando e le prova un po' tutte, e certi finiscono malamente, insomma, e rimangono lungo il percorso anche. Certo, dipende da che punto di vista si vede la discoteca, se il luogo dove ascoltare la musica, fare nuove conoscenze oppure perdersi dentro. Sì, non ho mai visto uno dove si facevano nuove conoscenze. No, è vero, perché poi il volume della musica non lo permetteva. Sì. No, non che io sia contrario, sì, certo. Dovrebbe essere libero di fare quello che vuole, però sì, l'esperienza che ho avuto io non è stata tanto felice, ecco, direi. È stata felice? I 4 mesi sei stato in California con l'idea di fare un disco nuovo, l'hai fatto il disco nuovo in California oppure no? No, non l'ho fatto. Non l'hai fatto? Non l'ho perché fatto. Sei partito in California, per andare in California, sei stato 4 mesi, e in un'intervista di qualche tempo fa hai detto: io vado, sono andato, voglio andare là perché ho l'idea di fare un disco nuovo. E vedi, questo è il problema di avere delle persone con cui hai un rapporto, diciamo, di amicizia, che sono anche giornalisti, per cui sei lì, stai parlando del più e del meno, e sì, non sì. Sai che poi loro alla fine lo scriveranno. Sì, lo certo, l'hanno scritto. O perlomeno una traduzione in inglese di quello che è il formigole, quindi potrebbe essere un ants in questo caso. Sì. Assolutamente no. No, non è proprio quello. Però sei stato all'estero, al di là della California, sei stato a suonare all'estero. Sì, abbiamo suonato in Spagna, abbiamo suonato in Slovenia, se si può considerare estero, stando a Trieste. ho suonato io da solo negli Stati Uniti in varie occasioni. Sì. Abbiamo girato, sì, un po'. È stata una bella esperienza. In sì, sì, fantastica. Chiaro. Adesso probabilmente avremo altri concerti in Europa, spero, Parigi, Bruxelles, Lussemburgo, credo, questo inverno, speriamo. Però. E quindi una bella tournée ti aspetta. Sì. Bene. Sì, sì. Quindi assolutamente soddisfatto. Vedi che quegli amici giornalisti che dicono qualcosa di più a volte servono. Un altro pezzo, quindi ti invito a prendere mano la tua chitarra, perché yes. Ci ascoltiamo quello che è il pezzo che apre il CD. Si intitola Baiamonti, eccolo qua, Tony Bruna, Blu Radio Veneto. Thank you. che tremo. Sei il vetrionte, sei il vetrionte che non si vede in strada. Vai a monti, vai a monti, fumigato, vai a monti, vai a monti, fumigato. C'è pompa di benzina, alle nove sono una campana che le vece istriane le va in cesa. Qua un esodo comincia ogni mattina, sì, un esodo comincia ogni mattina. Se lo trovi in piatto ora del seno, vai a monti, vai a monti, vai a monti, fumigata, vai a monti. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Tony Bruna qui a Blu Radio Veneto. Formicola è il titolo del suo lavoro, e questo che ci siamo ascoltati appunto all'apertura del CD si intitola Baiamonti. È un po' la storia di un paese, da un paese che si vede tra i vetri che sono onti, ovvero sporchi, per cui non si riesce a riconoscere bene chi passa in questo caso. E poi sempre una realtà, comunque quella che leggiamo nei testi, un paese che si lascia al mattino e poi si ritrova alla sera, quasi un lasciare, congelare e poi ritrovare la stessa situazione alla sera quando si rientra a casa. Dunque Baiamonti è la strada che delimita il quartiere degli istriani, uno dei quartieri degli istriani, degli esuli istriani in Trieste. Per cui sì, è un po' un paese, se vuoi, è un po' un ghetto, ed è, io credo, siccome sono obbligato a spiegare le mie canzoni sì, sì, credo che siano delle immagini, no? Questa canzone è per me è un po' una fotografia di quel rione, di quella situazione lì particolare. E quindi ad andarla a spiegare un po' mi viene in mente, non so se hai presente Corrado Guzzanti quando faceva. Sì. Sì, è un po' strano andarla a spiegare. Insomma, la canzone già, secondo me, parla di per sé. Tutte le canzoni in teoria dovrebbero parlare da sé, no? Per cui andarle a spiegare dopo è come spiegare le barzellette. Non fa più ridere. Musicalmente è un pezzo assolutamente folk, però questo qua. Sì. Poi, no, qualcuno ha scritto folk immaginario, ma non, a me sembra non molto immaginario, è proprio, okay. Non è immaginario, è proprio folk, ma che a parte di un quartiere, di un ghetto, quindi Baia Monti, quindi sì. Non c'è niente di immagine o di favola qua, c'è la realtà. No, in questa canzone in particolare sono d'accordo con te, è molto concreta. Esattamente. È proprio una fotografia, io direi, almeno una fotografia che ho fatto io in quel particolare momento. Il discorso del folk immaginario è una... Che l'hai detto te sempre, tutte cose dette questa, da te. Questa devo dire la verità che è proprio mia invece. È una formula che non so se mi sono inventato o l'ho rubata anche questa a qualcuno, perché so che sicuramente già esiste il concetto di folk immaginario, però spesso e volentieri ti chiedono di definire la tua musica. Esatto. E addirittura in certi festival, quando... riempi il formulario in internet, per esempio, non puoi andare avanti nel riempire il formulario se non definisci che cosa fai. Per cui sì, ho trovato che questa forse potrebbe essere una definizione, per quanto le definizioni nella musica credo che sia abbastanza tempo sprecato, sì. Andare a cercare definizioni. Il problema è che non puoi flaggare più stili musicali, no? Quindi dipende caso, dal sito, sì, dipende dal sito. Comunque mi sembra di sentire un po' di jazz, oltre che un po' di folk, per cui Urca. Soprattutto sì, ce n'è un pochettino, magari si vede soprattutto anche nella scelta degli strumenti musicali, sì, a fiato. Questo sì. Qua, esatto, sì. Forse la tromba di Massimo Tonin, che eccola, mi piacerebbe quella, citarlo, sì. Assolutamente sì. In questo pezzo assolutamente sì, jazz. A me ricorda molto Miles Davis per avvicinare, okay, sì, per avvicinare, sì, continuare, sì, ad avvicinare, sì, questi mostri sacri. Il famoso Miles, eccolo qua. Allora continuiamo con l'ascolto di un altro pezzo tratto da Formigole, questa volta diamo spazio a Pai della Luce, eccolo qua. Blue Time. Sento che Blue Time. Blue Time. Blue Time. Pai della Luce, abbiamo ascoltato questo pezzo con Tony Bruna, Formigole si intitola il suo nuovo lavoro. E allora, Pai della Luce, questa, questo pezzo che ha una parvenza di reggae, un po' di folk, un po' di jazz, inizia con una voce registrata, probabilmente dei genitori che riprendono una situazione poco chiara, anche se Pai della Luce dovrebbe riportare un po' di chiarezza su tutto. In realtà quella voce sono io. Ah, sono io che parlo dentro un dittafono. Sì, sì. Il dittafono è stato per me un compagno di viaggio per tanto tempo. Sì, spieghiamo cos'è il dittafono. Sì, il dittafono è un piccolo registratore a microcassette, no? Mm-hmm. E al posto del notes avevo un dittafono, per cui spesso lo usavo per prendere appunti o per parlare anche a me stesso. Sì, sì. Oppure anche per prendere le idee per le canzoni. Sì, sì, anche assolutamente. Quello lì era un messaggio da me per me. Sei pazzo totale. In qualche momento che neanche mi ricordo. Assolutamente sì, perché abbiamo visto che durante l'intervista ti ricordavi molto dei pezzi. Quindi stiamo scherzando, ovviamente. Benissimo. Allora siamo in conclusione. Allora, prima dei saluti, Tony, so che ci vuoi regalare un'altra canzone, chiamiamola inedita. Assolutamente. Sì, facciamo una breve presentazione prima di passare ai saluti. Devi citare i musicisti, Tony. Ah, citare anche i musicisti, certo. Non ce li dimentichiamo, altrimenti poi ti trovi a suonare da solo. Dunque, sì, chiaro. Sì, in triestino, però. Prego. Dunque, in triestino, sì. Allora, Gassonà nel disco con me, a parte me. Marco a Brescia, che abbiamo già detto prima, contrabbasso con l'arco. Ale Martini, che Gassonà contrabbasso con i diti, ukulele e vosi in Paio della Luce, seconde vosi. E Massimo Tunin alla tromba melodica e glockenspiel. E cosa ne manca ancora? Ne manca il chi che ha registrato, che ha mixato il disco, che è Abba Zabba, e chi che ha fatto il mastering, che è Marcus Ross a Berlino. A Berlino, a Berlino. Bene, abbiamo anche sentito l'espressione triestina di Tony Bruna. Allora, che dire, Formigole, se volete saperne di più visitate anche il sito di Tony Bruna. Ricordiamo il tuo indirizzo internet, Tony? www.tonybruna.com. Benissimo, che inizia con un bellissimo albero, no? Sì. Che offre riposo alle persone. Il sito è consultabile sia in inglese, naturalmente per gli amici internazionali, sia in dialetto triestino, perché si sente più vicino a Trieste. Benissimo, allora Tony Bruna, ti auguriamo un felice rientro nella tua amatissima terra triestina. Grazie. Speriamo di rivedersi presto anche con un nuovo lavoro. E allora, abbiamo detto tutto, ancora buon rientro, grande la tua musica, Tony, e noi abbiamo detto tutto, quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara il solito grande caloroso ciao, vi lasciamo con l'ultimo pezzo di Tony Bruna, eccolo qua. Grazie Tony. Grazie a voi per avermi ospitato, e questa canzone si chiama Iazzo. pezzo se spacca la piena, che anche con l'acqua e con gli azzo se spacca la piena. Bastassi solo aspettare, bastassi solo aspettare, come le vece in corriera, come le alghe in tel mare, come le vece in corriera, come le alghe. Blue Radio.